Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Sound check numero 372 qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, siete collegati con il Groove Master Studio e sono felice di ritrovare insieme, come i gemelli del gol potrei definirli, Silvia Barba e Francesco Tromba, together again. Eccovi qua. Ciao a tutti, ciao Gegè. Buonasera. Vi siete salutati con una certa freddezza, come mai Silvia? Beh, devo stare attenta. Perché? Beh, ormai una personalità ho accanto a me. Chi? Non più. Beh, come no? Guarda, le mie amiche sono tutte contentissime del mio ritorno qui al Soundcheck, perché dicono: così puoi stare accanto e respirare per un'ora e mezza la stessa aria di Francesco Tromba. Del Tromba. Tromba, mi stai diventando arrogante, lo sai? No, io non ho fatto niente. Questa, non hai fatto niente, ma ormai c'è una sovraesposizione, il tuo nome gira in lungo e in largo. Io vado anche ai concerti e mi chiedono: ma Tromba non è venuto? Ma che c'entra? Mica siamo fidanzati col Tromba, quello lavora con me, anzi. Troppo. Ormai pure, siamo, no? Una coppia, siamo una coppia di fatto. Sì. Hai capito, Silvia, come stanno le cose? Beh, molto bello, però vi vedo bene insieme. Sì, stiamo bene, ci divertiamo. Bene. Beh, anche perché il nostro rapporto lavorativo si basa su un come dire, sul filo del rasoio, viaggia, perché c'è uno spottò continuo, ma credo che sia alla base anche proprio del tipo di attività che facciamo. Alla fine dobbiamo stare coi piedi per terra, no? Perché facciamo spettacolo. Però glielo devi ricordare ogni tanto al Tromba. Sì, infatti, Tromba, tu prendi troppo seriamente questa attività. Io, veramente, mi hanno detto diverse cose, tipo mi hanno detto: sarai il nuovo Fabrizio Frizzi, per dire. Addirittura. I miei amici. Allora, guarda, io ma tu pensi che riuscirai a fare quel tipo di carriera? No, lo dico per l'indole o anche per il carattere, perché io non ci sono riuscito, ho avuto questa possibilità. Poi però, insomma, come dire, non sono Bonolis, anche perché quando Bonolis faceva Bim Bum Bam coi bambini, io parlavo con Miles Davis in televisione. Poi lui è diventato miliardario e io invece sto qui con te. Ecco, pensa questa. Tu, sei fortunato, dai. Ah, io sono fortunato, non è una cosa di scelta. Guarda, non mi far tirare fuori questo argomento, perché so che c'è papà in ascolto, e quando parlo di queste cose con mio padre, che mi ricorda sempre più spesso che ha fatto lo sfollamento, quindi nel periodo della guerra, mi dice: ma tu dovevi fare televisione, dovevi guadagnare di più, adesso ci sistemavi a tutti. Beh, di rimpianti. Hai rimpianti? No, io non ho rimpianti, però ti dico queste cose perché, visto che tu probabilmente ti stai avviando a fare questo tipo di carriera, preparati che per fare i soldi devi aprire i pacchi. Non è che potrei fare TV guadagnando, pensando, che ne so, a Sakamoto piuttosto che altri compositori, programmi. Beh, per ora gli unici pacchi che apro sono quelli che mi spediscono dalla Calabria. A Natale, sì, col peperoncino, però sì. No, devi precisare, perché dalla Calabria partono diversi pacchi in giro per il mondo e contengono anche altre cose. No, ovviamente i miei contengono solo cose da mangiare. Vabbè, no, e io, guarda, quasi quasi parlerei di questo, cioè di quanto in un paese come l'Italia si debba essere omologati al sistema, ma parliamo naturalmente di arte e di musica, quanto può essere importante essere non convenzionali e non etichettabili, e quanto è difficile esserlo. Vi piace? Sì, è un bel tema. È un bel tema, Silvia, sei d'accordo? Sono d'accordo. Bene, allora darei il via alla musica recuperando l'airplay che non abbiamo messo in onda perché il primo di gennaio eravamo pronti per dare il via alla trasmissione, poi Radio 24 ha organizzato uno special per i fatti drammatici successi a Istanbul. Allora, recuperiamo quell'airplay, un airplay molto particolare, Francesco. Sì, improntato più che altro su sonorità abbastanza country. Più che country, non convenzionali, ovvero sonorità che di solito nelle radio non si ascoltano. Noi molto spesso suoniamo musica che nelle altre radio non si ascoltano, ma parleremo anche di questo. In questo caso anche noi non utilizziamo moltissimo questo tipo di sonorità. Sì, soprattutto in Italia non è molto diffuso questo genere musicale, potremmo dire. Ecco, certamente parliamo di qualità come quella che propone questo signore, che è un vecchio bluesman che si chiama Bobby Rush. Direi di partire subito con I'm Tired. Questa è anche una versione quasi remix di questo brano, che forse è anche un classico di Bobby Rush, qui al Soundcheck di Radio 24. Sì, è un personaggio non molto conosciuto, forse neanche negli Stati Uniti, a parte la partecipazione che ha fatto in uno di quei documentari bellissimi dedicati alla storia del blues da Martin Scorsese. Si chiama Bobby Rush, qui al Soundcheck di Radio 24. Che cosa possiamo raccontare ai nostri amici di Bobby Rush? Beh, che lui è un artista, se vogliamo, anche anticonvenzionale, no? Perché nel suo stile si riscoprono degli stili diversi che lui fonde, e che poi con la sua verve eccentrica, perché ci sono anche delle copertine dei suoi dischi abbastanza divertenti, lui fonde il soul, il blues, il funk, perché poi ha un periodo verso gli anni Ottanta dove anche il funk fa parte della sua produzione. È un personaggio, devo dire, anticonvenzionale, si può dire di lui. Ecco perché ci piace Bobby Rush, perché ha larghe vedute in fatto di musica, quindi viene dal blues ma si lascia andare a tutto quello che poi il blues ha generato nel corso della musica e della sua evoluzione. C'è un altro signore del quale vorrei parlare, Francesco, che invece nei negozi di dischi americani lo trovi proprio nel catalogo tipicamente country e bluegrass. Sì, tra l'altro potrete trovare anche i suoi prodotti al supermercato, perché lui ha fondato un'azienda che si chiama Bakersfield Biscuits, che non vende biscotti. Di chi stiamo parlando? Dwight Yoakam, è anche un attore lui, tra l'altro, e trovate i suoi prodotti per surgelati in quasi tutti i supermercati americani, perché lui vende questi hamburger surgelati, quindi diciamo si è già procurato un piano B prima di partire, prima di iniziare a fare... Direi che forse il suo piano B è diventato il piano A. Sì, sicuramente, perché vive vendendo gli hamburger e poi si diverte a fare musica. Si diverte talmente tanto a fare musica country, quindi proprio col cappellone western e lo stivaletto di coccodrillo, che ha pensato bene di rendere country anche composizioni che non appartengono a quel mondo, ed è per quello che ci piace. A me è piaciuta questa idea, forse la versione non è così convincente, però sentire Purple Rain di Prince in una versione country mi ha colpito molto. Sì, sicuramente ti spiazza quando l'ascolti. Soundcheck, il suono della musica. E con l'esplosione dello swing finalmente da anni anche nel nostro paese, eccoli qui, The Time Jumpers, dei veterani del genere, devo dire un'amabile comitiva di pensionati, potremmo definirla. The Time Jumpers, io li trovo irresistibili con un album nuovissimo, We Are The Time Jumpers, il titolo di questo brano, che è praticamente la sigla di questa band, che insomma fanno una grande simpatia soltanto a vederli, poi quando suonano divertono ancora di più, perché quello è l'obiettivo dei Time Jumpers. Sì, anche in loro c'è qualcosa di anticonvenzionale. Loro intanto si sono formati a Nashville, patria anche del folk americano, e praticamente loro hanno iniziato a suonare in un pub il lunedì sera quando in giro non c'era praticamente nessuno a Nashville, ovviamente essendo il primo giorno della settimana erano tutti chiusi in casa dopo il primo giorno di lavoro. Di anno in anno hanno continuato a suonare, a fare queste serate il lunedì, finché il lunedì sera si è trasformato praticamente nel sabato sera, era sempre pieno di gente, tanto che hanno dovuto cambiare locale perché il primo locale era troppo piccolo. Inoltre, durante queste jam ogni tanto si palesavano dei personaggi famosissimi, addirittura Norah Jones è andata a trovarli e a cantare con loro. Certamente. Senti Silvia, tu che segui con grande attenzione l'attività artistica nella nostra capitale, a Roma, ti è mai capitato di frequentare le serate swing che vengono organizzate, che sono da personaggi ormai fondamentali come Pigi Siciliani o altre cose? Sono stata, sì, sono stata. Mi sono divertita, ecco, quello è lo spirito poi con cui si organizzano queste attività. Trovi persone davvero molto simpatiche, oltre a dei musicisti che comunque per produrre quel tipo di musica, ora Pigi è il caso romano, ma ce ne sono tantissimi in tutta Italia, dove ci si diverte, dove si ironizza molto anche sulle canzoni che si cantano e si balla, perché ballano tutti, quindi c'è anche questa attività particolare di scambio, oltre che di conoscenze, perché poi si conoscono davvero delle persone molto interessanti. Io sono stata, ero ferma, cioè guardavo lo spettacolo ma mi muovevo solo il piedino, ero un po' timida. Devo frequentarle di più forse per sciogliermi un po' e ballare un po'. Ecco, quindi quella che in Italia, perché negli Stati Uniti lo swing è sempre esistito, è anche se come genere musicale è stato un po' abbandonato da gran parte dei professionisti della nuova generazione, però è la musica sulla quale si formano i ragazzi, diciamo i cadetti della musica, nelle scuole di musica e nelle università. Tutte le università hanno la loro big band che propone i classici dello swing, e anche perché quando poi si fanno i concorsi, le gare di ballo, ma anche le feste nelle scuole, nelle università, anche nei licei, c'è la big band swing e tutti gli studenti si divertono, si vestono così come facevano i nostri nonni negli anni 50 o i nostri genitori. In Italia quella che fino a pochi anni fa era una tendenza per pochi appassionati adesso è diventata una moda, così come è stata la musica latina. No, io mi ricordo anni fa come nei club a Roma c'era musica cubana, latina, ancora oggi, ma ce ne sono un po' meno, perché i locali hanno capito che invece la nuova moda era ed è lo swing. Quindi secondo te come si sposta, come si spostano, come si muovono queste tendenze e queste tribù? Come al solito noi veniamo sempre, come dire, dopo un certo una certa attitudine a seguire una moda. In America c'è questa dimensione più popolare, no? Lo dicevi tu, dalle scuole alle università alle feste, è qualcosa che appartiene al loro background. Per noi è più una moda, non so quanto può durare. Come hai visto, insomma, la dimensione poi per esempio latinoamericana si è un po' persa negli ultimi anni e ha dato spazio a queste altre realtà che sono divertenti, che sono di aggregazione se vuoi, perché non è un concerto, si recupera la dimensione anche più popolare, più diretta, che è quella di divertirsi poi fondamentalmente, perché si va per quello, si mettono le scarpette lucide e il vestito con la gonna anni 50 e si balla, e devi vedere come ballano, tutte le età, eh? Cioè, Certo, io ci sono stato, ho frequentato insomma diverse serate e mi sono molto divertito. Non ho partecipato, mi hanno invitato sul palco, ho cantato qualcosa, ma non ho ballato perché neanch'io, ancora sono un po' così titubante. Tromba, qua tocca darsi da fare, no? Perché dobbiamo essere degli artisti completi, quindi tocca ballare. Lezioni adesso faremo una prova e facciamo due passi con Silvia, perché facciamo ripartire The Time Jumpers con I Hear You Talking, molto divertente. Devo fare ascoltare questo disco al mio amico Renzo Arbore, impazzirà sicuramente, e poi Blue Highway Blue, ascolteremo qualcosa anche di questo brano se abbiamo tempo a disposizione qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Picture Him Happy, il nuovo lavoro del mio amico Ben Sidran, favoloso come sempre, da sempre, non convenzionale. Ecco, un musicista che avrebbe potuto adeguarsi alle regole del mercato e invece ha sempre anticipato che cosa? L'alternativa. È stato forse uno dei primi produttori discografici di fama internazionale a capire che doveva mettersi in proprio, che doveva creare una sua etichetta discografica per produrre in libertà solo ed esclusivamente gli artisti vicini alla sua idea e al suo concept di musica, che è naturalmente un concept molto aperto. Un musicista che conosce la tradizione del jazz, molto legato anche alla musica classica, ma amante del groove, dell'R&B, della musica latinoamericana, e tutte queste cose si risentono ancora oggi nella musica che viene proposta da un uomo che è arrivato a 70 anni con il sorriso sulle labbra. Ecco, questa è la verità, mio caro Francesco Tromba. Sì, tra l'altro non dimentichiamo che lui, cioè, si può considerare assolutamente un intellettuale, scrive tantissimi libri, fa delle ricerche sia storiche che sociologiche, infatti anche nei suoi brani e in ogni suo progetto ci sono dei riferimenti anche letterari, come ad esempio in questo ultimo suo lavoro è c'è un completo e continuo riferimento al mito di Sisifo di Camus, di Albert Camus. Allora, questo è il soundcheck di Radio 24. Stavamo parlando di ciò che è etichettabile, non etichettabile musicalmente, di ciò che è convenzionale. Ecco, la cosa è che non è che tutto ciò che non è etichettabile, non convenzionale, è buono, anzi. No, infatti non sempre è bello quello che è fuori dal circuito principale. Come si fa a capire dove c'è la qualità allora? Che cos'è poi? Beh, questa è la difficoltà poi di chi deve riprodurre e promuovere questi artisti. La tua difficoltà, per esempio, è quella di fare una ricerca assoluta per ricercare anche poi la qualità. E questa perché poi se tu vai in giro, fino a qualche anno fa c'erano tantissimi locali che proponevano della musica anche alternativa. Il problema è capire e quindi avere anche noi che cerchiamo di promuovere questa musica la capacità di capire quale effettivamente di valore. È chiaro che il gusto la fa da padrone, se una cosa ti piace l'ascolti con piacere e cerchi di capire se ci sono degli elementi che possano essere poi appunto di qualità. Non sempre si riesce ad essere liberi e a piacere. Tu nella tua carriera, lo racconti sempre, papà vabbè, a parte, lo sei stato, è difficile. Vabbè, ti ringrazio Silvia, mi vuoi bene? Ecco perché lo so, io ti no. ho fatto indossare questa maglietta oggi. Poi ne parliamo. Dopo ne dai. Parliamo. Comunque io non mi sento mai in colpa quando presento Ben Sidran. Il brano si intitola Too Much Too Late, brano che tra l'altro Ben ha dedicato a un suo maestro che è anche il mio, che è stato Mose Ellison, scomparso da poco. Questo è il soundcheck, ci risentiamo fra pochissimo dopo l'informazione di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci puntualissimi dopo l'informazione di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck. Ci stiamo divertendo in qualche modo con Francesco Tromba e Silvia Barba, finalmente riuniti qui nel nostro studio, a verificare che cosa nel nostro paese funziona di non etichettabile o non convenzionale, o se soltanto gli stereotipi possono andare avanti artisticamente in un bizzarro paese come il nostro, giusto? Sì, diciamo che quello che è etichettabile per ora va abbastanza forte nelle classifiche di vendita, almeno quello. Allora, intanto io direi di chiarire una cosa, che la musica è stata etichettata dalle case discografiche per poter posizionare i dischi negli scaffali nei negozi, giusto? Esatto. Adesso siamo arrivati al fatto che i dischi non si vendono più, che la musica si vende e si ascolta attraverso il computer, ed ecco perché in questo momento c'è una grande esplosione anche di generi alternativi, commistioni di sonorità, cose nuove, cose diverse, artisti che probabilmente attraverso la discografia ufficiale non sarebbero mai venuti alla ribalta. Certamente è cambiato anche la metodologia. Prima erano i talent scout che ci facevano scoprire i nuovi artisti, che li andavano a pescare nei club e poi li portavano nelle etichette, stampavano i dischi e ce li facevano conoscere. Oggi invece la musica di un certo tipo dobbiamo andarcela a cercare, e quindi il nostro lavoro, come dire, è un po' stiamo un po' al centro del combattimento mediatico, no? Sì, prendiamo pugni da tutti i lati in un certo senso. Tu dici Tromba? Sì, però ne diamo anche di belli forti. Beh, noi suoniamo solo la musica che ci piace, questo senz'altro. Sì, sì. Certamente non possiamo rappresentarla tutta, però oggi, nella puntata di oggi, stiamo suonando delle cose anche non così convenzionali per il nostro programma. Oramai noi abbiamo il nostro mondo sonoro che va dall'R&B al jazz, la black music, il blues è la matrice comune di tutto quello che passiamo, però ci lasciamo andare anche a cose di grandissima qualità, pur non appartenendo al nostro concept di base. Sì, anche delle cose italiane che ci piacciono, certo, in alcuni casi. E per esempio a noi chi piace molto? Tantissimo, devo dire, una grandissima artista, si chiama Tosca. Oh. È brava, ma non si solo chiama, è brava. Si chiama Tiziana Donati, detta Titti, ovvero in arte Tosca. Vabbè, perché è una tua amica e la chiami Titti. Beh, ci conosciamo, non posso neanche dire da quanti anni ci conosciamo. Beh, diccelo. Però io, guarda, intanto ultimamente è stata celebrata all'Auditorium Parco della Musica nella Sala Petrassi con un bellissimo concerto con i suoi strepitosi musicisti e tutta una serie di amici che hanno partecipato al concerto, e fra questi anch'io. E ci conosciamo da tanti anni, perché quando io tornai dagli Stati Uniti con l'esperienza con la Go Jazz, Ben Sidran, del quale abbiamo parlato prima, vedi, poi tutto torna. Tutto torna. Io misi su una band eccezionale, lo devo dire, perché poi tutti i musicisti che parteciparono a quel progetto sono oggi dei numeri uno, da Roberto Gatto a Dani Lorea, a che ne so, Max Bottini, che vive a New York, leader dei Gaben, giovanissimo Stefano Di Battista, il compianto Marco Tamburini alla tromba, le due voci femminili, non posso neanche dire coriste, perché poi hanno fatto una carriera incredibile anche rispetto alla mia in Italia, erano Tosca e Giorgia. Ecco, hai capito, tromba? Avevano 18 anni, erano bravissime e bellissime, lo sono ancora oggi, brave e belle. Brave artiste, se vogliamo, no? Perché poi la completezza sta anche nel fatto di non avere solamente una bella voce o di cantare molto bene, ma anche nel caso di Tosca specialmente, di essere una grandissima performer. È un'attrice, fa anche teatro canzone, ha fatto degli omaggi alla tradizione popolare romana con lo spettacolo anche su Gabriella Ferri, bellissimo. E poi una grande classe. Non lo so, quando l'ascolto noto una grande eleganza. Sì, una grande classe. All'eleganza, la classe, la disinvoltura delle grandissime voci. È una voce internazionale, anche se canta in italiano, però è una voce internazionale perché si può permettere, e con Francesco l'abbiamo vista più volte in azione, di utilizzare fonemi linguistici di altri paesi. Sì, infatti dietro questi suoi ultimi progetti c'è comunque anche una ricerca, oltre che sonora, antropologica, molto curata, cioè proprio quasi scientifica. Inoltre un'altra cosa che mi piace sottolineare è una persona che, proprio quando la vedi dentro una sala, cioè anche se lei non parla, riempie comunque quella sala, cioè noti la sua presenza anche se lei non parla. Eccola qui, Tosca appare quindi al soundcheck con Il Porto. A mesma musica. Soundcheck, il suono della musica. È il bello della musica, e lo diciamo sempre, la musica è bella perché è varia. Ecco. Sì, è sicuramente uno degli... E noi abbiamo il diritto, dovere di rappresentare la varietà di questa meravigliosa arte, e quello che cerchiamo di fare, che tentiamo di fare qui al Soundcheck ormai da 4 stagioni. Certamente, lo ripeto, non possiamo rappresentare tutte le sonorità, però con disinvoltura e grande passione suoniamo la musica che ci piace. Ecco. Assolutamente sì. E perché dico questo? Perché al signor Tromba, ormai nome noto dei sistemi di teleradio comunicazione nazionale e presto anche internazionale, piace questo signore, e piace anche a me, che si chiama Andrew Bird, che ha una grande considerazione negli Stati Uniti. Mi sa che in Italia veramente forse airplay radiofonico l'ha ottenuto quando? Oggi? Per la prima volta. No, qualcuno l'ha suonato. Qualche volta, dai. Sì, l'ho già sentito. Ovviamente tipo si contano sulle dita di una mano sola. Assolutamente. E a me piace tantissimo, perché tra l'altro l'ho visto anche dal vivo quando suonò a Roma un paio di anni fa. In quel caso era il progetto da solo, in cui lui suonava tutto, perché è un po' l'istrumentista, un fischiatore professionista, canta molto bene. È vero, fischia, è pazzesco come fischia. Sì, fischia veramente, cioè neanche... Musicista completo, eccezionale violinista, bravissimo chitarrista, arrangiatore, compositore, è anche lui un intellettuale. Sì, assolutamente. Poi ha un progetto, ultimamente sta utilizzando molto i canali social, cioè lui una volta al mese organizza nel suo soggiorno un concerto, una specie di jam session. Spesso ci sono degli artisti ospiti, i suoi amici, come ad esempio Fiona Apple o anche altri nomi importanti. Da lì improvvisano proprio nel suo studio, che in quel caso è anche il suo soggiorno. E poi è molto amato dai colleghi. Se pensi che nella sua band, nell'ultimo tour, aveva al contrabbasso, ma anche come chitarrista e corista, uno come Alan Hampton, che è fra gli artisti che noi preferiamo ormai da un po' di tempo, insomma. Sì, lui tra l'altro è uno che ha fatto appunto della creatività e dell'essere anche abbastanza fuori dai canoni soliti, perché cioè lui ascolti una sua canzone e sai che è lui, è molto riconoscibile ed è comunque fuori dal circuito delle multinazionali. Un'altra cosa molto particolare è che questa canzone che abbiamo ascoltato, Capsized, lui dice una delle sue preferite, una di quelle canzoni che proprio riesce a suonare e risuonare in 10.000 versioni diverse, che non si stanca mai di suonare. Sì, cosa che ci riporta anche al jazz, perché i musicisti di jazz possono suonare non so quante volte anche uno standard, ma renderlo sempre originale a seconda del momento, della situazione, del pubblico e dei musicisti con i quali lo proponi. Direi di ascoltare ancora qualcosa da Andrew Bird. Come si chiama questo nuovo album? Si chiama Are You Serious? Are You Serious? Beh, anche noi siamo serissimi quando parliamo di musica. Andrew Bird, il prossimo brano è Truth Lies Low. Can you hear me? Mua, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. Beh, parlando di musica non etichettabile, di musica non convenzionale, non potevamo non riproporre qui al Soundcheck di Radio 24 una band californiana come Wolfpack, ragazzacci che registrano tutto in un salottino anche arredato in maniera abbastanza bizzarra, lo potrete notare perché realizzano tutte le loro produzioni discografiche con tanto di ripresa amatoriale che poi viene proposta su YouTube. Il brano era El Chepe, che ci porta un po', che ne so, quasi in Sud America con questa strana sonorità per dei ragazzi che sono appassionati del suono tipico della Motown degli anni 60, ma poi utilizzano anche molto l'elettronica, cose molto funk. Insomma, sono ragazzi che noi seguiamo e che ci ha fatto scoprire il nostro amico Leo Sidran ormai un paio di anni fa. Sì, loro diciamo sono proprio quasi i re dell'essere fuori dalle convenzioni, perché sono completamente lontani da tutto quello che è il mercato discografico. Loro si sono autoprodotti, sono nati da soli, sono andati avanti con le loro gambe sempre e comunque. Tra l'altro sono anche degli artisti concettuali, potremmo dire, perché quando realizzarono il loro album Sleepify, che consisteva appunto in 12 minuti di silenzio, era quasi appunto una situazione di arte concettuale. Poi i guadagni che ottennero dai quei quasi 20.000 dollari più o meno li utilizzarono per regalare un concerto a tutti quelli che avevano comprato il disco di 12 minuti di silenzio. Fantastico. Senti Silvia, ma per una band che propone cose non etichettabili, che non propongono cose convenzionali, quanto è complicato promuovere se stessi e la loro arte? Beh, complicato perché non si ha spazio mainstream nei grandi circuiti, però oggi se vuoi c'è più possibilità. Se tu segui Wolfpack su Instagram o sulle dirette Facebook, fanno dei video assolutamente, io non capisco delle volte, non li capisco perché scrivono anche in maniera molto complicata con lo slang eccetera, sono davvero folli. Io all'inizio pensavo fossero un po' cialtroni, invece sono veramente molto bravi, però sono assolutamente fuori dagli schemi. Dove li devono promuovere questi ragazzi? Alla NBC piuttosto che In Italia manca questo tipo di follia o non viene a galla? Beh, oddio, dobbiamo essere molto attenti noi a cercarla, perché secondo me non è molto evidente. Dove puoi trovare? Dimmi un programma televisivo non convenzionale. No, televisivo no, ma neanche radiofonico. Radiofonico, ok, ci parliamo un po' una volta, lo devo dire anche per ricordare dei miei amici, no, con Michel Pergolani e Renato Marengo, che avevano demo in Rai, no, in radio, e davano la possibilità ai nuovi talenti italiani di poter avere un'esposizione mediatica importante. Però mi sa che un programma del genere potrebbe e dovrebbe tornare in una radio come la Rai, ma anche come Radio 24. Perché no? Potreste farlo voi due? Dai, tutte e due. È una buona idea, noi ci proponiamo. Vediamo, se vogliamo farci cacciare in blocco possiamo proporre il programma. Ok, allora da Wolfpack a un'altra band, insomma questi sono forti. Comunque molto molto forti, si sente dal sound. Il brano si intitola Good Day to You, Sir, e sono RC and the Grits, naturalmente una produzione della Rope Dope. Soundcheck, il suono della musica. Postcards from Everywhere con il progetto Kinfolk del batterista, polistrumentista, compositore e anche una persona molto divertente Nate Smith, qui al Soundcheck di Radio 24, brano intitolato Pages, che annovera fra gli altri artisti anche la partecipazione della vocalist Gretchen Parlato, alla quale abbiamo dedicato una puntata del nostro Soundcheck di domenica. A proposito, noi comunque torniamo domani alle 19:15 sempre su Radio 24 con il Soundcheck, puntata abbastanza jazz e anche originale nelle sonorità, per cui da non perdere assolutamente. E abbiamo rubato abbastanza tempo, miei cari ragazzi, quindi vi ringrazio ancora una volta, Silvia Barba e Francesco Tromba. Volete ringraziare il vostro pubblico? Prego. No, prima io, no, fallo prima tu, che le, ringrazia le mie amiche che vogliono conoscerti. No, prima le donne. Prima le donne, allora ringrazia tu. Ah, ok, ma pensavo volessi ringraziare tu le donne. No, io ringrazio te che ci dai questa possibilità di ascoltare sempre buona musica, tutto il pubblico che ci scrive, seguiteci su Twitter, su Facebook e chi più ne ha più ne metta. Bene. E io ringrazio le amiche di Silvia Barba ecco. Bene. E tutte le altre amiche che ci ascoltano. Potete scrivere direttamente a Francesco Tromba per appuntare per delle visite specialistiche, sarà molto felice di incontrarvi. Grazie a tutti voi, buona serata e buona musica. Ah, attenzione, vi lascio con un talento eccezionale. Questa è la praticamente tiro fuori un altro asso adesso dalla manica. Così, sì, questo me lo ha fatto conoscere una mia amica che si chiama Joanna Teeters, voce di Mad Satta ma anche voce di Fun Slow Ride. Mi ha detto: senti questo, si chiama Jay Hord, insegna canto, è un ragazzo eccezionale. Il brano è Not So Fast, ma ne riparleremo quando avremo più tempo di questo signore. A tutti voi buona serata e buona musica da Gegè Telesforo, Silvia Barba e Francesco Tromba.